Stanno per scoccare le ore 21 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come ogni mercoledì inizia prove tecniche di trasmissione. Contenitore di elettronica, industrial, ambient, noise, sperimentazione in genere, contenitore che andrà avanti sino alle 22.30. Il Princess prevede poi 25 o'clock. Il telefono è lo 06 49 1750, il sito internet è www.ondarossa.info, anche per usufruire del nostro streaming. Le comunicazioni mediante posta elettronica si possono inviare a ondarossa@ondarossa.info.